24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, eccoci qua, ben ritrovate 24 mattino, il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Sandro, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quanti. Ma ieri, ieri abbiamo parlato di monete contraffatte. Esattamente. Oggi parliamo di altre monete, mi sa che ci devi sì, ci lo nascondi, so che qualcosa? Un po'... No. Hai svaligiato una banca, no? Magari, guarda, non sarei qua, sarei da un'altra parte. Come magari? Fantastico la Rosciani che invita tutti, magari. Ma non c'hanno più niente le banche adesso. Svaligiamo le banche. Ma che cosa vuoi svaligiare? Che non c'hanno più soldi neanche per piangere. Avanti, ma dopo questa istigazione al reato, eccoci qua. No, ma... Allora, sì, hai giustamente ricordato la puntata che abbiamo fatto ieri. Abbiamo parlato di banconote contraffatte. Noi, peraltro, mentre ci stavamo con i miei collaboratori documentando sull'argomento di ieri, siamo incappati in questa notizia che è stata pubblicata da un sito che si chiama Peace Reporter, e dove abbiamo letto: lo sapevate che in Italia circola da qualche tempo un'altra moneta oltre all'euro? E siamo un po' balzati sulla sedia, abbiamo cercato di capirne qualcosa di più. Si chiama SHEC, è uno strumento già utilizzato da molti cittadini nel nostro paese e anche da molte attività produttive e commerciali, in realtà è diffuso in 10 regioni italiane. Allora noi stamattina abbiamo cercato di capire intanto a che cosa serve, perché naturalmente abbiamo avuto subito un approccio piuttosto scettico, e soprattutto dove lo possiamo andare a prendere questo SHEC. Pierluigi Paoletti è presidente dell'associazione Arcipelago SHEC, benvenuto Paoletti. Buongiorno. Tra l'altro stavamo parlando di banche, se non sbaglio lei è un analista finanziario pentito? Sì, diciamo di sì. Allora, noi abbiamo utilizzato il termine moneta, forse non proprio in termini appropriati, esatto. Che cos'è questo SHEC? Lo SHEC intanto è l'acronimo di solidarietà che cammina, e non è una vera e propria moneta semplicemente perché è una percentuale di prezzo, ovvero sia è come una scontistica che naturalmente noi abbiamo mutuato dalla grande distribuzione che da più di 30 anni gioca con i buoni sconto, e lo abbiamo applicato invece alla piccola distribuzione e alle produzioni locali. Quindi lo SHEC non è altro che la rappresentazione grafica di una riduzione di prezzo che gli associati decidono di farsi reciprocamente. Li abbiamo paragonate gli SHEC alle banconote banalmente perché alla vista appaiono come delle vere e proprie banconote, hanno dei propri tagli e corrispondono alla cifra in euro. Sì, hanno un hanno un rapporto con l'euro di 1-1. Ovviamente uno SHEC vale un euro, ma è un euro di sconto, in quanto non è assolutamente convertibile in euro, e questa è una cosa che ci contraddistingue da tutte le altre, anche spesso da alcune iniziative commerciali che addirittura cambiano buoni sconto, punti, accumulano punti per cambiarli poi con euro, con buoni benzina, eccetera. Noi ci teniamo a mantenere queste cose perché naturalmente sia la gratuità, perché ricevere il SHEC non viene dato alcun pagamento, quindi si ricevono gratuitamente all'atto dell'iscrizione, e naturalmente questo consente di ottenere delle riduzioni di prezzo all'interno del circuito che è sia locale, quindi regionale, ma anche interregionale. Infatti lei ha citato che circola in 10, anzi in 11 regioni italiane, perché ancora oggi si è associata anche un'altra regione. Ah, benissimo. Allora, intanto ci spieghi proprio in termini concreti, perché lo scopo di Soldi e Dintorni è di dare qualche informazione pratica ai nostri ascoltatori, come si può aderire a questa iniziativa, come facciamo poi ad individuare anche le attività economiche che sono convenzionate con gli arcipelaghi SHEC, perché ovviamente non possiamo andare ad utilizzare questi buoni sconto, poi chiamiamoli come vogliamo, ovunque. Dottor Paoletti. Innanzitutto bisogna andare sul sito arcipelagoshec.org. SHEC, ricordo, è l'acronimo di Solidarietà che cammina, quindi SCEC, SHEC. Dopodiché iscriversi, all'atto dell'iscrizione riceverete 100 SHEC, e questi naturalmente possono essere spesi non nella grande distribuzione, ma nei negozi o negli esercizi commerciali, oppure nelle aziende locali che producono localmente e reinvestono soprattutto i loro proventi sul territorio. e in questo caso si cerca di dare maggiore potere di acquisto alle famiglie che naturalmente sono oberate dalle scadenze e dare anche alle imprese, spostando quindi la domanda dalla grande distribuzione alla produzione locale, dando alle imprese anche una maggiorazione del fatturato. Quindi in questo modo si recupera un pochino la comunità locale, sia sociale che economica, che è stata degradata specialmente in questi anni da una globalizzazione, diciamo, selvaggia e da un accesso al debito che sta veramente minando le basi sia dei nostri rapporti, perché naturalmente l'altro in questo caso è visto più come un nemico che come un collaboratore, e anche le imprese, insomma, stanno, ovviamente ieri il bollettino della Banca d'Italia ha dato un quadro molto molto pesante, per cui dobbiamo in qualche maniera risolvere e aiutare sia le nostre famiglie sia le nostre imprese, e questo è un modo abbastanza semplice, ma insieme ai piani aziendali che noi mettiamo in ponte, diciamo che può essere un aiuto piuttosto concreto. Ecco, dottor Paoletti, lei ovviamente ha enfatizzato l'aspetto di aiuto a questo frangente economico che è particolarmente delicato e anche particolarmente negativo, soprattutto per le piccole imprese che operano sul territorio, strozzate in qualche maniera anche dal fatto che le banche non erogano credito. Su questo aspetto ci siamo già soffermati milioni di volte stamattina, non vogliamo farlo ulteriormente, però voi siete nati un po' prima rispetto alla crisi. Come vi è venuta quest'idea? Noi siamo professionisti anche del settore, quindi oltre una delle nostre caratteristiche è anche quello di studiare l'economia, per cui già da tempo noi avevamo visto diciamo che il settore economico si stava degradando insieme a quello sociale. Voi pensate solamente che le famiglie italiane sono indebitate per il 60% del loro patrimonio, ma nel resto del mondo, ad esempio in Inghilterra, sono oltre il 140%, sì. Addirittura in America, se sommiamo i debiti personali, quelli delle famiglie, dello Stato e delle imprese, si arriva a oltre 3,5 volte il PIL. Quindi ecco, la situazione del debito specialmente è una situazione molto pesante, per cui secondo noi c'è da riscoprire in questo frangente, come crisi intesa come uno spunto per il cambiamento, si cerca di recuperare quelli che sono i valori che erano delle nostre civiltà contadine, delle nostre radici, quindi della collaborazione, del fatto del mutuo aiuto. E in questo caso penso che probabilmente sia necessario un ritorno a queste cose. Un'ultima indicazione, no, forse ancora un paio di informazioni, dottor Paoletti, riusciamo a darle. Ci ha spiegato le modalità con cui si può aderire all'iniziativa. Dobbiamo iscriverci all'arcipelago SHEC della nostra regione, qualora questo servizio fosse presente nella regione dove abitiamo. Non ha un costo molto alto associarci a voi, quanto ci costa, che cosa chiedete? Noi chiediamo solamente un libero contributo, che può essere anche un euro, per il recupero delle spese di stampa. Infatti una particolarità di questa iniziativa è che è assolutamente gratuita, quindi quello che facciamo sia le nostre associazioni locali sia quella nazionale, che è il coordinamento, è assolutamente a titolo di volontariato. E questo naturalmente lo facciamo anche per sgombrare il campo da qualsiasi sospetto di lucro che ci può essere dietro a qualche esperienza, certo, di quel del genere. Altrimenti vanificheremo tutto quello che abbiamo detto, sì, questa infatti. Mattina. Ricordo solo qualche cifra per concludere. Lo SHEC viene utilizzato da 4.000 persone e accettato insieme all'euro da 1.700 attività commerciali in tutto il nostro paese. Grazie a Pierluigi Paoletti, presidente dell'associazione Arcipelago SHEC. Ci faccia sapere se da questa trasmissione, come dire, sul vostro sito sono arrivati tanti click per informazioni e per richieste di informazioni. Buon lavoro. Grazie a voi. A presto. Allessandro. Eccoci qua, Deborah. Alle 12 noi parliamo della pensione delle donne, ma non per le novità che sono arrivate con il DPF, ma solo per parlare, non solo, per parlare delle casalinghe, per capire loro, insomma, che futuro previdenziale le aspetta. Sono le 8:32, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha promulgato il testo sulla sicurezza, ma ha espresso al governo perplessità su alcuni punti, in particolare le ronde e il nuovo reato di clandestinità. Il Capo dello Stato parla di rilevanti criticità e da Palazzo Chigi la risposta è: ne terremo conto. Il governo ha dato anche il via libera al DPEF, che comprende l'innalzamento graduale dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego e l'adeguamento dal 2015 dell'età pensionabile alla vita media. Dal governo anche il via libera allo scudo fiscale. Chi detiene capitali all'estero potrà regolarizzarli e rimpatriarli pagando un'aliquota complessiva del 5%. Il provvedimento varrà dal 15 settembre al 15 aprile 2010. Insorge l'opposizione che dice è un condono. Infine, per il ciclismo, al Tour de France vince ancora il britannico Cavendish, è la quarta volta. E l'italiano Nocentini, vittima tra l'altro di una caduta, resta comunque in maglia gialla. Da domani però si affrontano le Alpi. È tutto alle 8.33 minuti. Per i vostri messaggi 349-238-6666 parliamo dunque a 48 ore di distanza dalla sentenza che ha condannato Luigi Spaccarotella, l'agente di polizia, a 6 anni per omicidio colposo per uccisione di Gabriele Sandri l'11 novembre 2007, vi ricorderete, in un autogrill in provincia di Arezzo. Le polemiche, insomma, il PM, l'accusa, aveva chiesto 14 anni, aveva chiesto l'omicidio volontario, invece la condanna è stata per omicidio colposo. Le reazioni le possiamo sentire, qualche voce, insomma, reazioni di rabbia dei familiari. Alcune un po' più comprensibili e più pacate, come quella del padre di Gabriele Sandri a Studio Aperto, la sentiamo. Per noi è inaccettabile una sentenza del genere, completamente ribaltata da omicidio volontario a un semplice omicidio colposo, come se Gabriele fosse stato investito da un'auto. Vabbè, una legittima, insomma, insoddisfazione. Poi ancora il padre di Gabriele si spinge forse un po' oltre. Pretendo giustizia dallo Stato che non mi è stata data, perché lo Stato ha ucciso mio figlio, è lo Stato responsabile e mi deve dare giustizia. Lo Stato ha ucciso mio figlio. E poi reazioni altre, invece, quelle francamente no al momento della sentenza. Vabbè, la rabbia c'è, è comprensibile, a volte ci sono queste sentenze che scatenano rabbia, però certe cose. Ti devono sterminare la famiglia. Io non lo so, ho letto dai giornali, ma credo che queste parole fossero rivolte all'avvocato di Spaccarotella, Federico Bagattini. Avvocato, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Erano rivolte a lei? Ahimè, sì. Erano rivolte a me. Così scrive anche Carlo Bonini, che è con noi. Carlo Bonini, inviato di Repubblica. Ben ritrovato, Carlo. Buongiorno. Eccoci qua. Frasi che sono legittime, rabbia legittima, altre francamente no. Carlo, ti chiedo, tu hai già scritto, a me è quello che ha dato fastidio è che questo, al di là delle considerazioni sulla pena che si possono fare, che lo stadio, certe curve, certe tifoserie si siano trasferite all'interno del processo e purtroppo anche all'esterno, abbiamo già visto. A questo proposito, quanto è concreto il rischio che le tifoserie trasformino il processo che c'è a un poliziotto a un processo alla polizia, in vista anche dell'apertura del campionato? Beh, mi pare che questo rischio è più che concreto, nel senso che è un rischio che si è già manifestato. Mi pare lo abbiano già fatto. Perché non solo quello che è successo subito dopo la lettura, anzi durante la lettura della sentenza, ma anche quello che è successo 5 ore dopo a Roma. Insomma, hanno impiegato 5 ore per assaltare nuovamente una stazione dei carabinieri a Roma, per lanciare sassi, bottiglie. Purtroppo questo è il punto, io credo, cruciale. E devo dire, in questo probabilmente non vengono neanche aiutate le tifoserie, perché il processo, ripeto, il processo per la morte di Gabriele Sandri per loro è diventato il processo allo Stato. Come purtroppo ha detto, io sono uno di quelli che dico che a volte il microfono sotto la bocca dei familiari delle vittime non andrebbe messo in quei momenti, perché si possono dire comprensibilmente anche delle cose per le quali poi lo stesso padre di Gabriele si è anche un po' pentito, ieri ha fatto un po' di retromarcia, ma dire lo Stato me l'ha ammazzato, Sono stato malammazzato, ma non solo, ma insomma, io ho visto, devo dire, insomma, mi è capitato ormai facendo questo mestiere di vedere più di un processo e anche di ascoltare più di un verdetto controverso, ma insomma non mi era mai accaduto di vedere un avvocato non poter uscire dall'uscita principale del tribunale, essere portato via su un cellulare dei carabinieri. Insomma, questo è un fatto secondo me significativo, un fatto che ci deve far riflettere, perché ripeto, dà la misura non tanto di una rabbia comprensibile per certi aspetti, legittima, ma dà la misura di quello che poi era diventato, è diventato questo processo, di quello che ci si aspetta da questo processo. Sì, della tensione, anche perché tra un mese riparte appunto il campionato. Tra l'altro l'avvocato appunto è Federico Bagattini, non so se lei avvocato ha voglia di commentare, ma forse no, giriamo pagina queste parole. Sì, direi senz'altro di sì, Le chiedo però, glielo chiedo senza sconti, senza problemi, perché quello che molti anche ci hanno chiesto come ascoltatori intervenendo, qualcuno ha detto, beh, ma se non fosse stato protetto da una divisa sarebbe stata di 6 anni questa pena per questo omicidio? Ma io credo francamente che la divisa non abbia davvero protetto nessuno. Io credo che insomma la storia della giustizia in questo paese dimostri che i principi costituzionali di indipendenza e autonomia della magistratura sono davvero rispettati, sono sotto gli occhi di tutti. Ora insomma, fare esempi davvero sarebbe troppo lungo, ma dico, il pensiero corre immediatamente a Filippo Raciti, no? A parti invertite, nel momento nel quale si è verificato un appannamento degli indizi, delle prove nei confronti di chi era stato attinto da misure cautelari, sono stati scarcerati. La vicenda che, come ricordava Carlo Bannini, che saluto, della macelleria messicana di Genova, è andata di fronte al tribunale che non ha davvero fatto sconti ad alcuno, quindi non mi sembra ci sia un problema di questo genere. Le chiedo però altra cosa che un po' mi ha sorpreso: perché è legittimo che Spaccarotella dica ora vorrei tornare in servizio, è la mia aspirazione, il mio sogno? Signora, perché l'ha detto subito? Forse non era meglio. L'ha detto subito, non lo so. Forse dico era anche meglio. Forse era opportuno che tacesse su questo punto, però al di là del merito del problema, che peraltro non mi riguarda perché io insomma non faccio diritto amministrativo, ma cerchiamo anche di calibrare i nostri ragionamenti sulla posizione di chi questo processo l'ha subito, no? Pensiamo per un attimo che questa sentenza sia giusta, e cioè che non sia stato affatto un omicidio volontario, e allora da questo punto di vista chi è stato sospeso legittimamente dal servizio pensa anche di potersi rientrare. Poi dal punto di vista dell'opportunità sono perfettamente d'accordo con lei, insomma i microfoni sotto la bocca a volte sono degli ordigni esplosivi, ecco. Carlo Bonini, ovviamente ci sarà il processo d'appello, ci sarà poi il terzo grado, insomma questa vicenda giudiziaria che tu hai seguito, quanto inciderà quello che all'esterno si verifica? Abbiamo sentito anche i familiari dire vorremmo una manifestazione con 1 milione di ragazzi in piazza, poi ieri c'è stata un po' una parziale retromarcia, vorremmo incontrare il ministro della giustizia Alfano. Insomma, è un processo che si svolgerà sempre solo nelle aule, oppure c'è davvero il rischio che quello che avviene fuori entri inevitabilmente? Beh, insomma, il processo si svolgerà in un'aula, certo. Diciamo, bisognerà vedere con quali premesse di serenità, perché qui il problema poi peraltro, insomma, come è evidente, non è tra un giudizio di colpevolezza e un giudizio di innocenza, perché Spaccarotella è stato condannato, sì. È stato ritenuto colpevole, e tra un giudizio di colpevolezza grave e un giudizio di colpevolezza negligente, di colpevolezza dolosa e di colpevolezza invece negligente. E quindi insomma diciamo che c'è una pressione rispetto a un esito che deve essere uno solo, cioè la richiesta è che il processo di appello in qualche modo concluda in un unico modo, e quindi la pressione manifestazione ci sarà. Ieri, devo dire, insomma, mi hanno anche colpito le parole del sindaco Alemanno di Roma, che ha detto: io chiamerò il ministro, grazie al ministro di giustizia e il ministro dell'interno, perché vigilino sul processo d'appello. Insomma, la vigilanza sui processi, insomma, è anche un termine un po', se vogliamo, riporta indietro a un'altra Italia. Tra l'altro io credo una cosa, ma questo lo dico perché la sentenza è sicuramente la sentenza della Corte d'Assise di Arezzo, una sentenza controversa, poi uno leggerà le motivazioni, è controversa perché era, come, delicato il punto su cui si doveva dare rendere la decisione. Ma io dico una cosa che pochi hanno fatto e continuano a fare. Io ne parlavo anche proprio con il fratello, ieri ne riparlavo nuovamente col fratello di Gabriele Sandri, e che in questo processo c'era una giuria popolare, e quindi in qualche modo io credo che la giuria popolare, evidentemente, a un certo punto è lì che è la giuria popolare che ha pesato nel rendere questa decisione. Cioè, qui si immagina uno Stato che attraverso i suoi funzionari, nel caso specifico due giudici togati, diciamo, autotutela, protegge, sì, chi ha sbagliato. Ma lì c'erano sei giudici popolari, tre uomini e tre donne, e io credo peraltro che siano stati i giudici popolari ad aver fatto, diciamo, pesare la decisione, questa decisione. In questa chiave. E questo credo sia un punto su cui ragionare, perché insomma, poi i giudici popolari, diciamo sempre, la giustizia è amministrata in nome del popolo, e quando poi il giudice popolare pesa, diciamo, facciamo finta che non ci sia. No, io mi devo fermare, vi ringrazio sia Carlo Bonini, inviato di Repubblica, e l'avvocato Federico Bagattini, che è uno dei due legali di Luigi Spaccarotel. Allora, primo giorno di Europarlamento, si è insediato e pare, così scrive almeno ieri Repubblica, Mastella arrabbiato, intercettato in ascensore, una diaria da 290 euro, sta miseria, non ci si sta dentro, si prende meno che in Italia, in ascensore sventolava furioso le carte che gli porgevano i suoi assistenti. Questo sarebbe Mastella, così, no? Queste le carte che studiava Mastella, sventolandole, sta miseria, ma che? Questo ha scritto Repubblica, noi l'abbiamo sentito Mastella, sentite un Mastella show, sentiamo. Scrive una stronzata, scusi, non è che scrive una cosa seria. In che senso scrive una stronzata? Cioè, come si permette di Repubblica questo? Noi stiamo facendo una discussione tra noi parlamentari. Io non, dice là gli assistenti, io non ho gli assistenti, ancora non mi ha nessun assistente, non ce l'ho gli assistenti. Quindi mi comparato con gli assistenti, ma una stronzata. L'unico riferimento, abbiamo detto, ma tra tutti i parlamentari e altri che stavano là con me, che la diaria era piccola qua rispetto al dato del Parlamento nazionale, non a eccepire nulla, quello è, stop. Tutto sto problema, sto casino, solo con me è successo in Repubblica, è incredibile. Cioè, dire lei non ha detto è una miseria, ma chi l'ha detto una miseria? Questo lo dice il giornalista di Repubblica, ma chi ha detto la miseria? Quale miseria? Dice sventolava gli assistenti, io non porto mai nulla, non ce l'ho ancora gli assistenti, non ce l'ho. Al di là degli assistenti, non si è lamentato, insomma, questo lei dice, non mi sono lamentato. Ma non mi sono fatto, gli altri discutevano con me sulla differenza tra Parlamento nazionale e quello qua e l'Europa, su quella era la differenza, non sulla miseria. Ma non era mica una cosa che dire la miseria, 208 euro, che mica sono la miseria, immagini. Era riferito a quello, se uno è nel contesto. Pure la Bibbia sta scritto che Dio non esiste, però sta scritto prima, dice lo stolto, quindi non è colpa mia se stanno gli stolti. Ma io lo sapevo quando sono venuto qua che guadagnavo questo, quindi mica mi lamento. Vabbè. Che era cambiato tutto, io lo sapevo. Dopodiché è possibile discutere, se si dice tra colleghi, eravamo reduci alla discussione, stavamo tornando in aula per dire, diciamo, che il Parlamento nazionale guadagna più di parlamentari europei. Abbiamo detto, piglia meno, molto meno. Poi parlavano tre parlamentari, solamente io. Ma quindi lei dice una miseria rispetto ai parlamentari nazionali? No, non ho detto una miseria, no. La miseria se l'è inventata lui, la miseria. Proprio ha inventato non la parola. Non è l'espressione mia la miseria, guarda. No. Quella io sono venuto qua sapendo, non è che mi ha invitato nessuno a venire qua spontaneamente, sono venuto io, mi sono candidato, quindi sapevo quello che si guadagnava poco, di meno, non me ne frega niente. Me è un dato simbolico, sono venuto qua, quello che piglia anche una lira stava bene per me. Era la miseria, la cosa sventolava, che sventolava? Non porto mai la carta in mano io, non porto mai con la borsa, che sventolavo che? La bandiera di Repubblica, che sventolavo? Cioè, non è che Mastella è per la casta e non contro la casta? No, scusi, la parola casta viene utilizzata sempre con me. O se era finita, ma un'altra volta, quale cassa? Che me ne frega della cassa a me? Poi la cassa, quando ci sto io la cassa, quando stanno gli altri nella cassa, non ho capito. Fino a mo' che guadagnano tantissimo, non era la cassa. Mo' è diventata la cassa un'altra volta e non è la cassa. Ma questo si è inventato, cioè ha raccolto rispetto a una discussione, una parte a discussione, ma senza nel contesto generale. Ma la parola miseria, non ho mai detto la parola miseria. Che me ne frega della casta a me, ha detto Mastella. No, ha estrapolato, ma che miseria. Alessandro Caprettini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, giornalista inviato del Giornale, ha seguito per tanti anni l'Europarlamento, ha scritto l'Eurocasta italiana. Allora c'è la casta anche in Europa italiana. Che effetto fa sentire Mastella così? Arrabbiato a uno show di Mastella, ma che miseria, io anche per una lira vengo qua, è una rivalsa simbolica. In realtà quanto guadagnano i parlamentari europei? Non una miseria, certo. Beh, no, assolutamente. Allora bisogna intanto cominciare con una precisazione. In effetti la scorsa legislatura guadagnavano molto di più, perché l'indennità, cioè come dire lo stipendio base di un eurodeputato italiano arrivava a oltre 11.000 euro l'anno, esattamente 11.703 euro netti per ognuno dei 12 mesi, a cui si dovevano aggiungere tutta una serie di indennità, tra cui appunto questo rimborso quotidiano di cui parlava Mastella, che sono 287 euro al giorno. Ecco, la scorsa legislatura, in seguito alle pressioni di alcune istituzioni europee, tra cui la stessa Commissione, si è deciso di fare uno statuto del parlamentare che unificasse gli stipendi, perché gli italiani erano quelli che prendevano più di tutti. Noi prendevamo appunto questi 11.000 e passa euro di aria, mentre ad esempio alla fine i lituani, i lettoni prendevano 1.000 euro al mese, gli stessi francesi ne prendevano 6.700, certo, e così via. Ovviamente parificando tutto, ai lituani, esatto, va di gran lusso, agli italiani, ecco, esatto, qualcosa. Noi naturalmente l'abbiamo presa in saccoccia, come si suol dire, nel senso, noi, si fa per dire, in saccoccia, l'hanno presa loro. In saccoccia, e forse anche giustamente, per cui si è deciso di unificare il tutto facendo una percentuale sullo stipendio di alcuni magistrati europei, per cui praticamente a questo punto si prendono intorno agli 8.000 euro lordi, che diventeranno praticamente circa 5-6.000 euro al mese. Quindi rispetto agli 11 netti si capisce bene che gli europarlamentari, certo, italiani si lagnano. Sì, io vorrei anche spezzare una lancia per Mastella, perché effettivamente c'è. Lui dice poi eravamo in tre, sempre a me. Cioè. Ma sì, vabbè, insomma, erano lì probabilmente a seguirlo Mastella, certo, ogni passo, no? Appena fa un errore. Lui con Repubblica magari ha un rapporto di tipo particolare. Sì, è chiaro. Questo è da mettere in conto. Però è anche vero che è molto possibile che gli europarlamentari, perché io ho già saputo di alcuni di questi eletti che stanno già pensando di fare ritorno per le prossime regionali, perché in Italia si guadagna di più anche a livello regionale, si lagnano perché dicono ma qui insomma non ci sono più gli stipendi di una volta. Allora è vero insomma che una certa lamentela c'è, ma come, cioè già c'è gente che pensa di tornare per le prossime regionali che sono tra un anno, certo, insomma. Ma è così, cioè, ma certo, stiamo perché parcheggiati all'Europarlamento a fare, sì, un po' di come dire, sì. È così, avviene, continua ahimè a avvenire, io temo che continuerà ad avvenire ancora, perché in realtà il vero problema irrisolto non è tanto quello dell'Europarlamento, è quello del costo della politica in Italia, che è spaventoso rispetto a quello di tutti gli altri paesi. Cioè, da noi un consigliere circoscrizionale, io ne ho conosciuto qualcuno nell'arco della mia attività, è assolutamente sconosciuto, è una persona, come dire, alle prime armi in politica e così via, riesce facendo 4 lunedì sera a portare a casa qualcosa come 2.000 euro netti al mese. È vero. Cioè, il costo della politica sta diventando insostenibile ed è una cosa che a me preoccupa moltissimo. I politici fanno finta di disinteressarsene o quantomeno mi preoccupa, perché questo aumenta sempre di più il divario tra la gente comune, chi è eletto per fare gli interessi della gente, perché ormai sono visti come appunto una casta, come un'altra roba, quindi questo, come dire, fa esplodere il qualunquismo, fa esplodere come dire il ritiro dalla politica e tante altre cose che forse non dovrebbero esserci. Una cosa che è cambiata, mi pare, Alessandro, sempre da questa legislatura a Strasburgo, a Bruxelles, è che prima i biglietti aerei venivano rimborsati, cioè senza neanche, venivano presi, rimborsati, sì, in business class, anche se il parlamentare prendeva un low cost, e anzi, sì, lo faceva a piedi, anche se veniva a piedi, gli veniva dato il rimborso del biglietto aereo. No, adesso invece no. adesso con il nuovo statuto adesso bisogna presentare tutta una serie di ricevute. La stessa cosa ad esempio avviene con gli assistenti. Gli assistenti ad esempio erano una spesa notevole, perché pensate solamente che per quello che riguarda appunto il lavoro degli assistenti venivano versati 15.000 euro al mese per reclutare uno o più assistenti. Accidenti. E spesso accadeva, successi degli scandali, che degli europarlamentari mettessero i nomi di figli, nipoti, cugini, zie, così, tenendoli in tasca. Stavolta bisogna presentare dei regolari contratti che vengono poi retribuiti. Quindi in effetti per l'europarlamentare è diventata un po' più ostica la situazione. Cioè non ci sono più le vacche grasse di un tempo, ecco. Eppur si muove, qualcosa si muove lentamente. Qualcosa sì, per fortuna. Però ecco, come al solito si è mossa l'Europa. Noi in Italia continuiamo a non far nulla. Io ricordo ad esempio il dibattito ampio che si è fatto sull'abolizione delle province, che sono un ente ormai assolutamente del tutto inutile, e siamo ancora carissimo amico. Continuiamo a pagare i consiglieri provinciali e tutte quante le loro spese. Non sono solamente le indennità, naturalmente, no? Perché poi ci stanno tutte quante le spese, come dire, complementari, dalla macchina, l'autista, dai telefoni. Non solo le comunità montane, i nostri amici delle comunità montane, se ne parla, sono ancora, ci sono, sì, ci sono. Come sono, lottano e vivono insieme a noi le comunità montane. Io ringrazio Alessandro Caprettini del Giornale, voglio ricordare anche l'Eurocasta Italiana, il suo libro, insomma, per chi volesse sapere di più, edito da PM, su quello che guadagnavano, qualcosa è cambiato, ma insomma i lauti guadagni rimangono, i nostri europarlamentari. Mastella dice: non ho detto la miseria, sempre con me, ce l'avete, ebbene sì, cioè ebbene no, ci fermiamo qui anche per oggi. Grazie Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Domani ci sarà Irene Zerbini al mio posto. Io tornerò lunedì tranquillamente e 24 Mattino continua. Grazie.